Canto secondo della Divina Commedia, Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto secondo. Già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalemme col suo più alto punto. E la notte, copposita lui cerchia, uscia di Gange, fuor con le bilance, che le caggion di man quando soverchia. Sì, che le bianche e le vermiglie guance, là dov'io era della bella aurora, per troppa etade divenivan rance. Noi eravam lunghesso il mare ancora, come gente che pensa a suo cammino, che va col cuore e col corpo dimora. Ed ecco, qual sul presso del mattino per li grossi vapor Marte rosseggia giù nel ponente sopra il suol marino, cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia, un lume per lo mar venir sì ratto che il muover suo nessun volar pareggia, dal qual, com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per dimandarlo duca mio, rividi più lucente e maggior fatto. Poi, d'ogni lato, adesso m'apparìo un, non sapea che, bianco, e di sotto, a poco, un altro a lui n'uscio. Lo mio maestro ancor non fece motto, mentre che i primi bianchi aperser l'ali. Allor, che ben conobbe il galeotto, gridò: «Fa, fa, che le ginocchia cali!» Ecco l'angelo di Dio, piega le mani, ma vedrai di sì fatti ufficiali. Vedi che sdegno gli argomenti umani, sì che remo non vuol né altro velo che l'ali sue tra liti si lontani. Vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con l'eterne penne, che non si mutan come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne. Ma chinal giuso, e quei sen venne a riva, con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava al celestial nocchiero, tal che parea beato per iscritto, e più di 100 spirti entro sediero. In exito Israel d'Egitto cantavan tutti insieme ad una voce, con quanto di quel salmo è poi scritto. Poi fece il segno lor di Santa Croce, ond'ei si gittar tutti in sulla piaggia, ed el sengì, come venne, veloce. La turba, che rimase lì, selvaggia, parea del loco, rimirando intorno, come colui che nuove cose assaggia. Da tutte parti saettava al giorno lo sol, ch'avea con le saette conte di mezzo il ciel cacciato il capricorno. Quando la nuova gente alzò la fronte ver noi, dicendo a noi: «Se voi sapete, mostratene la via di gire al monte!» E Virgilio rispose: «Voi credete forse che siamo sperti d'esto loco, ma noi sempre peregrin come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco, per altra via, che fussi aspra e forte, che il salir oramai ne parrà giuoco. L'anime che si fur di me accorte per lo spirare, ch'io era ancor vivo, maravigliando, diventaro smorte. E come a messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle, e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate tutte quante, quasi quasi obbliando dire a farsi belle. Io vidi una di loro trarsi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a fare il simigliante. O ombre vane fuor che nell'aspetto, tre volte dietro lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, ed io seguendo lei oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse, allor conobbi chi era, e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposemi, così com'io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto. Ma tu perché vai? Casella mio, per tornare altra volta là dove io son, fo io questo viaggio, diss'io. Ma a te come tanta ora è tolta? Ed egli a me, nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva e quando e cui li piace, più volte m'ha negato sto passaggio, che di giusto voler lo suo si face. Veramente, da 3 mesi egli ha tolto che ha voluto entrar con tutta pace. Ond'io, che era ora la marina volto dove l'acqua di Tevere si insala, benignamente fu da lui ricolto. A quella foce ha egli or dritta l'ala, perroché sempre quivi si raccoglie quale verso a Cheronte non si cala. Ed io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea acquietar tutte mie voglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro ed io e quella gente che eran con lui parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Noi andavam tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, ch'esser non lascia a voi Dio manifesto. Come quando, cogliendo biada o l'olio, gli colombi adunati alla pastura, queti, senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa appare ond'egli abbian paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura, così vid'io quella masnada fresca lasciare il canto e gire inver la costa, com'uom che va ne sa dove riesca, né la nostra partita fu men tosta. Fine del canto secondo.